My name is Ragnar Pfizer. Eccoci. Yo. È lunedì sera, prima serata, sono le 21 e poco più e questo è Ragnar Pfizer sulle frequenze di Controradio per voi, con voi, come tutte le settimane. Colossus, Duccio, Tommy, Biga, che è già pronto per il suo set. 055 73 999 33, se ci volete telefonare. E se ci volete invece scrivere, lo potete fare a info.ragnarpaisa@gmail.com. ragnarpaisa.net è il sito che potete mettervi nei bookmarks, perché già da domani sera potrete scaricare questa puntata, come potete già fin da adesso scaricare tutte le altre puntate. Tutte le altre puntate scorse, delle scorse stagioni, eccetera, eccetera. Io tutte le volte lo ricordo, i nostri mix. Insomma, ci sono un sacco di belle cose, andate su ragnarpaisa.net. Possiamo lasciare andare Biga e ci risentiamo fra poco. Let me Let me show you, I can show you. If you let me, let me, let me, let me, oh, let me, let me, let me, let me show you, show you, show you, show you. Let me show you, show you, show you. Me. If it's true love, then you should believe in me. Cause I would never steer you wrong, but I'll stay in my lane if you feel it's wrong. But it can't be, you know why it can't be. Cause we haven't tried, give us a chance please. Can't let love go to waste when it's right in our face. Baby, this should come as no surprise. I wanna get to know. Okay. Thank you.

Allora c'è sta roba, parliamo di sta roba. No, c'è da parlare di questa situazione Attenzione, situazione. Questa è proprio una situazione che viene fuori da Original Cultures. Eccoli. Chi ci ascolta conosce bene Original Cultures, perché non è la prima volta che ne parliamo. In ogni caso, se ne volete sapere di più, www.originalcultures.org. E praticamente dopo un live che venne fatto in quel di Bologna, che vedeva Fauda Trio, che sono un trio che è a base a Bologna, con LV, che sono un duo invece di produttori inglesi con base a Londra, anche conosciuti come Swami Million, è nata l'idea e la voglia di fondere, diciamo, le loro esperienze e fare un disco. In pratica stanno cercando i fondi per andare in Marocco, perché in Marocco è la terra alla quale si ispirano per fare questo disco, specialmente i Fauda Trio. E niente, se andate su www.originalcultures.org andate a vedervi questo documentarietto di 10 minuti scarsi, che è Road to Essaouira. Tra l'altro la grafica spacchiusa. Andiamo tutti in Marocco, ciccio. Bisogna andare. It's time to... Si va anche noi. Può fa caldo, brother. Si può fumare qua dentro. No, chip. Vabbè, bisogna andare fuori. Ok. Comunque, Road to Essaouira vi spiega un po' qual è la situazione, ve lo andate a guardare e poi vi leggete tutto e andate a donare, se volete. Donate un po' di dindini per far sì che questo progetto si avveri. Guardatevi, a parte gli scherzi, guardatevi questo video, perché è veramente interessante, la musica è figa. Fauda Trio non li conoscevo, li ho conosciuti tramite Original Cultures. LV li conoscevo, e insomma li conoscete anche voi, li conosci tutti, se ci maledetto. Seguite, perché no, vabbè, LV comunque lo suoniamo, sono artisti hyperdub e quindi li suoniamo da sempre. Originalcultures.org. Un saluto a Christian. Yo! E niente, lasciamo andare Colossus. Lasciamo andare il Colossus. Ci risentiamo più tardi per dirvi un po' delle serate che ci saranno in settimana. Siete dei bomber. Ciao! Like your folks, but if provoked, damn right, I'll rip the tonsils out your throat. And Just remember when the LP drops, your chart position stop. So fly south with the flock, cause soon your shit will go flat. We're on like a top hat, it's nasty like that, while we waiting by the haystack. And tick-tock, go round the clock, and we don't stop rockin' till rock at 3 o'clock. Tick-tock, go round the clock, and we don't stop rockin' till rock at 3 o'clock. And tick-tock, go round the clock, and we don't stop rockin' till rock at 3 o'clock. Tick-tock, go round the clock, and we don't stop rockin' at 3 o'clock. Time zone traveling, unraveling the secrets of mysteries that boggle humans for centuries. Theories appear crisp and clear to me as air, magically through meditative focus, mechanically I'm there. Dream state and connection, then awake as the main theme in a carefully constructed scene, which begins with a bright beam of light. Become a satellite scene as a flash in the sky through the eyes of a writer who shall remain anonymous, lust for higher learning. Surge with burning yearning, inspired by spirits of great grand descendants. Give visions of dark skin, signing over freedom on documents marked with X's. Illiterate, stripped of languages, slave masters metaphorically ripped out their larynxes. Yet they beat drums and sang songs, now I keep it moving along in the same form and context. Since the torch has been passed to the next generation, my main motivation is to be a sovereign nation. 360 degrees all around, above and below, is the planet where I hold jurisdiction, yo. Kwali, I know you fed with this whole situation. I know you reflect on revolution. Can only be one conclusion, one action conducive to changes. Some civilizations have been at war for scores, bloodshed on history pages, and in the end, what side wins? Old has been replaced by the new. When all is said and done, stand out amongst the few as examples of what one can do. It's a true story, right at the end when Denzel died in glory. Knock on wood, when I'm gonna be, launch me into the galaxy. I'll be a solitary star in the constellation, transferring information into the minds of young prodigies. Looking up, wishing all my energy until the day they become entities. Parallel to me, the universe is cycle of destiny. What exists is more than we see. More than we see. More than we see. More than we see. More than we see. More than we see. Yeah. Forget the years you've been alive. We living in the same age. Tell me where your mind is at. We living in the same age. Yeah. Tell me what's on your mind. We living in the same age. Yeah. Tell me what's on your mind. Yeah. Yeah. Yeah. We living in the same age. Yeah. Tell me what's on your mind. Courageous. We living in the same age. Advantageous. Yeah. Once again on mission, driven by ill thoughts that we envision. What? Got a lot of ambition, now we got a pot to piss in. Cats seem to be quick to whip they shit out and they missing. Well, I ain't straight, it's a new era, you feel the transition. Man, listen, you know them Libras, how they just balance it out through the ages. Dropping wisdom like sages, while the whole world go through phases. Peep how the rhyme is vintage like a wine, gets better with age and time. Niggas think they free, who need the chains when you can enslave the mind like true conquerors. They call the explorers brave, say they collecting when I say they robbing people's graves. It's complex, you know what I be noticing the party. Dude, this ego tripping like De La or Nicki Giovanni. So I try to put that behind me, but it got me in an ill position. Like the camera sutra, the past kicks my ass back to the future and reminds me. Not the losers, but the winners tell the story. Ignore the truth, take out the gory details and get the glory. My grandfather died when I was a shorty. He fought for our country. It couldn't be his, cause to this day they still don't want me. My great grandmother put arsenic in the master's tea after she came from hearing a speech by Marcus Garvey. Not separate or equal, so fuck Ferguson and Plessy. Your folks were slaves, bringing it like Nat Turner and Denmark Vesey. The age of the industry, the plantation system was dead. Let them work, they can make enough to eat and keep a roof over their head. You still a motherfucking slave. Doesn't matter if you're near white, a little lighter, blacker than a thousand midnights. We write in the new age with new slaves. We need to bless the stage, cause the audience brain is affected by devils like Cage. Call us brave, but the system got our people's acting depraved. Forget the years you've been alive, we living in the same age. Yo, tell me where your mind is at, we living in the same age. Take that with you to your grave, grow up before you show up. Take that with you to your grave, grow up before you show up. Take that with you to your grave, grow up before you show up. Time is relative, we live it in the same age. Open up your third eye, we live it in the same age. Yeah. Era il set di Colossus. Ora c'è Duccio già pronto in postazione per un'altra ventina di minuti. Nel frattempo vi volevo segnalare un mini documentario che trovate su YouTube. Non penso sia neanche una roba recentissimissima, ma insomma vale la pena vederlo. E infatti è di agosto 2012. Il documentario si chiama Aldo Sinesio For You e l'ha realizzato Gianni Gebbia, che è un musicista, ma penso si occupi anche di montaggio video, direttore video, eccetera. Tutto su Aldo Sinesio e la famosa etichetta Oro. Chi segue il jazz sicuramente la conosce, visto che a novembre è venuto a mancare Aldo Sinesio. Questo qua può essere un ricordo interessante per chi non conosce appunto questo produttore italiano che tanto ha fatto per la scena jazz. Aldo Sinesio For You su YouTube, andatevelo a vedere. Lasciamo andare Duccio e ci risentiamo fra un po'. Stop. Rats and Rays too, and it's hot smoking. Yeah. Allora Lillo, yo, yo, yo. Sono più lontano, forse un silippa. Che mi senti? Sì, un po' più vicino. Aspetta, avvicino il proel. Eccolo. Allora partiamo, yo. Diciamo un po' di serate della settimana, più che altro del fine settimana. Partiamo con venerdì 31. Che c'è venerdì 31? Egala. Venerdì 31 non c'è nulla prima di venerdì 31? Ma io non so nulla. Non ci sa nulla. C'è il calcetto e giovedì poi. Eccolo. Maledetto. Allora, venerdì 31 alle gabbie? Alle gabbie. Con la venerdì chiave 31, di cioccolata. Con la chiave di cioccolata, così che niente. O un tunnesci. Dipende. Lo sai. Allora, venerdì 31 alle gabbie ci sono io, sudato fradicio, con Baker Boy. Te attacca alle gabbie. Sudato a forza di bocciare. Te con Baker Boy alle gabbie, serata si chiama Cord. Cord. Dove sono le gabbie? Le gabbie? Le gabbie, insomma, sono lì dietro Piazza Ravenna. Dietro Piazza proprio Ravenna. Proprio al limite, wow, di Gavinana. Agli estremi. Agli estremi di Gavinana. Cioè già... Già, sì, dai, via, yeah. Siamo sempre in Gavinana, dai, via, accettiamolo. In che modo. Poi, sabato 1 invece, volume Grabber Soul. Grabber Soul. Con Godu Gong. Godu Gong è l'ospite. Godu Gong è l'ospite, il volume trovasi in Piazza Santo Spirito, come sempre. Claro, sempre lì. E invece sabato 1 io sono a Perugia a suonare al Red Zone. Nella sala B, nella B-side room. Attenzione. Per il compleanno, il 7° anniversario della trasmissione Belli come il Sol, che potete ascoltare tutti i venerdì dalle 17 alle 18:30 su Radio Fonica, www.radiofonica, scritto P-H. Fonica Corpiaca. Radiofonia.com. Fonica Corpiaca. E che tu ne dosi di soul? Ne doso di che c'è. E di che c'è. Di che c'è e di che non c'è. Di che lei, che lei, che lei. Che lei. Yo. Noi restate con noi. Noi restate con noi. Restate con noi fino alle 22:30 e ci risentiamo lunedì prossimo. Claro. Domani in tardo pomeriggio, as usual, su ragnampaisa.net, la puntata con la playlist che vi potete scaricare. Yo! A lunedì prossimo, questo è Tommy per un'altra ventina di minuti. everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat. But I know she was born to do everything wrong with all of that. But I know she was born to do everything wrong with all of that. Maria Bethânia, please send me a letter. I wish to know things are getting better, better, better, better, better, Bethânia. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. Before the flood, after the blood, before you can see, she has given her soul to the devil and bought her flat by the sea. She has given her soul to the devil and bought her flat by the sea. Maria Bethânia, de Tupã, de um amor, de a se beijando o mar, de um mergulho, de a se sobre água clara, coração, de a se o aruá, plenilunio. Pela vertente de um leito livre, então seu lutará. De um seio a mulher, que Tupã fará da cor do amor. Caraíba em caravela, e o capirama não darei. Terra onde nasci, nasceu de um sorriso de Tupã, de um amor, de a se beijando o mar, de um mergulho, de a se sobre água clara, coração, de a se o aruá. Nasceu de um sorriso de Tupã, de um amor, de a se beijando o mar, de um mergulho, de a se sobre água clara, coração, de a se o aruá, plenilunio. Caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Yeah.